di internet. Perlomeno, magari perché guarda le partite, quindi io ti parlo da non partitaro, e a me proprio le partite di qualsiasi genere non mi interessano, sono per i film, eccetera. E oramai praticamente Amazon te lo dà gratis, e già quello non riesco a guardarlo. Poi c'è anche Netflix, che è molto buono, c'è quel tot al mese, Amazon addirittura annuale, compreso un Prime, e si paga da solo se fai molti acquisti. Quindi capito, hanno tolto il giocato, in parole povere. Ripeto, può interessare ai partitari, magari, quello sì. Adesso, vabbè, io sono da 95 che ho l'impianto, diciamo, di un certo livello, che poi piano piano migliorato, ma quando erano ancora analogici c'era di divertirsi, perché cacchio, c'avevi tante di quelle possibilità di migliorare la ricezione. C'era, poi io prendevo questi canali svedesi, e ancora la televisione non esisteva, c'era questo canale che trasmettevano in D2 Mac, ci voleva un decoder particolare, una pseudo alta definizione però analogica, c'era bei colori, belle immagini, eccetera eccetera, dovevi avere un decoder e dopodiché ti dovevi fare quei lavori che hai detto tu per attivarli. Erano i canali, c'erano addirittura anche i film, diciamo, spinti davano in questi canali. Adesso è una cosa normale, ma all'epoca, negli anni 90, cacchio, non era normale vedere le trasmissioni che trasmettevano. E poi io mi divertivo soprattutto per i trasferimenti, perché ancora era tutto in analogico, c'era sempre su quei satelliti soliti, e ti vedi tutti i trasferimenti delle postazioni, per dire collegamento a Milano verso Roma, lo mandavano via satellite, tu intercettavi il coso, mettevi la frequenza, solo i parametri erano pochi, nel senso c'era la frequenza e la polarità, e boh. Oppure certe volte mi invertivano, mettevano sinistroso o destroso, erano quei canali là, non erano né verticale né orizzontale, era polarizzazione circolare, per cui dovevi spostarti il polar mount dell'antenna, il polarizzatore, e ti doveva spostare in base alla polarizzazione della radiazione del satellite. Ed erano dei divertimenti, poi c'era il regolatore di su, gli amplificatori di su, c'era un sacco di roba, era divertente. Allora io mi vantavo di questo, perché venivano tutti e io mi devo guardare la Juventus, come fa a vedere la Juventus? Non esistevano ancora le PTV, non c'era niente, e venite a casa, ve lo faccio vedere, tutti. E poi dopo un paio d'anni sono iniziato a vedere le PTV, anche gli altri le vedevano, però io me li guardavo in chiaro, tranquilli, puliti, vedevo i collegamenti bordo campo quando c'era il 90° minuto, per dire, tutto il calcio minuto per minuto, che si collegavano con lo speaker della, per dire, a Bari, e lui faceva in quei 30 secondi ti diceva la sintesi della partita. Io li vedevo in televisione, non solo in radio. Sì, si sta alzando parecchio la preparazione. E me lo ricordo quei tempi, ma soprattutto, diciamo, si guardava anche film porno, diciamo, c'era tutto, c'era la spagnola, Tequila, una cosa del genere, poi c'era quella francese, poi c'era diciamo, tutte quelle altre che c'erano, tanti film di tutti i generi, e poi quella scheda era meravigliosa, perché con quei decoder lì ti aprivano tutto. La cosa che mi ricordo, la cosa più chiara che mi ricordo, sono le trasmissioni non so se te li ricordi tu, che davano alla televisione, probabilmente le danno ancora, perché in quei paesi non cambia mai niente, dello Yemen, dei nigeriani, libici all'epoca, anzi la Libia forse era più moderna, che era una cosa praticamente micidiale. E infatti io da lì dicevo, ah, ecco perché la gente se ne va da questi paesi, vedere una trasmissione a canale singolo con questi che suonavano il piffero per 5-6 ore, guarda, io mi sarei sparato lì. C'era il festival, no, anche un festival tipo Sanremo di questa gente qua, mamma mia. Ma poi la cosa più bella, quando c'erano, tipo dicevano le preghiere il giorno, il venerdì, cose così, poi quando c'erano i sermoni, per dire, di quelle mormoni, Giappone, Geova, cose del genere, in altre nazioni. No, divertente, io quando trovavo, per dire, all'epoca c'erano le guerre, guerre del Golfo, cose del genere, c'era la CNN, e la CNN tutta la riguardavi alla Rai e tra Monte Carlo, le ripeteva, io me le guardavo in diretta, CNN International, e ti guardavi tutte le notizie in anteprima anziché aspettare il telegiornale. Poi c'era l'NBA, non so se tu ti è mai piaciuto vedere la pallacanestro, però te le vedevi, c'erano questi canali, vedevi direttamente queste cose, ed era interessante perché noi, nessuno ne conosceva di NBA, a parte gli appassionati. Io mi ricordo, a parte il codo televisivo lo seguivo anch'io, c'era tante la CNN e compagnia cantante, poi era un periodo particolare anche perché ricevevi allora internet non era così diffuso come adesso, c'era la possibilità anche di vedere i bollettini in radio, no? Sentivi le telescriventi, leggevi Reuters, ANSA, bombardato posto eccetera eccetera, abbattuto aereo e queste cose. Mi ricordo che un giorno, credo che fosse la prima guerra del Golfo, quindi quella più avanti, abbiamo sentito, cioè meglio, più che sentito, abbiamo visto queste scie nel cielo ed erano, saranno state una ventina di B-52 che transitavano proprio sulla Sardegna per andare a bombardare l'Iraq. Quindi era una cosa veramente micidiale vedere tutti questi aerei in cielo, e ti dava l'impressione della guerra, proprio tante scie, questi aerei grandi che passavano. Ti è capitato di vederli? Non proprio B-52, ho visto altri aerei, sì, ma B-52 no. Ma anche quando c'era la guerra del Kosovo, di lì, cacca, non parliamo di lì, poi c'erano il periodo di Al Jazeera lo stesso, ti ricordi? Adesso Al Jazeera ha perduto proprio anche lui, lì. Però all'epoca, dopo la CNN, c'era sempre Al Jazeera, era l'unica televisione che poteva entrare quando c'era la seconda guerra del Golfo. Sì, e anche di lì noi eravamo coinvolti per la guerra, diciamo, del Kosovo, soprattutto con le cose lì, che tra l'altro abbiamo ancora la missione di pace lì, che ogni tanto ci va anche la brigata Sassari, siamo rimasti soli di lì a comandare tutto. E tu figurati che ho letto dai fonti ufficiali che praticamente la pista di Aviano, che era il principale aeroporto che ospitava tanti aerei da caccia, c'erano anche gli altri italiani, dato la distanza, che ospitavano aerei cisterna e ce n'era più la metà, che con la pista di Aviano, in cui c'erano tutti gli americani di stanza anche da prima della guerra, l'hanno dovuta in quel periodo rifare non so quante volte, perché l'usura è stata talmente tanta, le emissioni erano talmente tante che questa pista proprio si collassava e quindi doveva essere rifatta. E questo perché tanti aerei da caccia e da combattimento vario atterravano di lì. Era una cosa micidiale. C'era la base più vicina, la base di riferimento per tutti i coso, le incursioni, gli aerei B-52 mai volavano dalla Germania, partivano, perché hanno lunga autonomia, ma tutti i caccia partivano da Aviano, ne abbiamo visti di tutti i colori. No, in Kosovo io conosco bene la situazione perché ci sono andato tante volte di lì, conosco persone, vabbè non proprio Kosovo, ma sono andato in Albania tantissime volte, ho parlato con tante persone, mi hanno raccontato tante storie. Il giorno che se ne vanno via gli italiani scoppa un'altra guerra, non ci credi, perde subito l'indipendenza il Kosovo, perché con la Serbia è una guerra totale, cioè, basta tipo Nepal, cos'è quel fettino che c'è nel Nepal, che basta un coso nel Kashmir, cosa c'è quella guerra di lì, che sono per un pugno di pietre si bisticcia. Purtroppo quando l'odio è radicato così profondamente a causa di etnie e cose del genere, sai, occorrono generazioni per cambiarlo. Ancora con la guerra a molti scoppiano. Tieni presente che poi hanno fatto dei genocidi micidiali. Io mi ricordo quelle immagini sempre dei reporter di guerra, che all'epoca c'erano di veramente bravi, di quando i cecchini, che erano dei grandi bastardi in quel caso, se la prendevano con i bambini e con le mamme che andavano su quel famoso ponte lì che c'è, hanno fatto fuori tanti. E questi da lontano li usavano come bersagli, capito? Sì, sì, ma io la conosco benissimo la situazione, è una carissima amica mia, lavorava di una televisione nazionale albanese, mi ha detto tante cose, ha fatto dei documentari, addirittura ce n'è uno che non lo può trasmettere perché è una cosa troppo grave, succederebbero delle cose troppo gravi, infatti lei ha rischiato anche la vita, hanno cercato di ammazzarla perché lei ha questo documentario che ha fatto, che non l'hanno mai trasmesso, però è una cosa troppo tragica. Poi non so se avevi visto quel film Dietro le linee nemiche, che parla proprio di questa guerra, quel caccia americano che sta facendo fotografie, che è stato abbattuto, un pilota si è salvato, eccetera. Quella è verità, non so male quei fatti. Sì, anche se è vero che in questa guerra le porte aeree eccetera hanno avuto un ruolo molto marginale, perché proprio per una questione di utilizzo dei mezzi, non so, c'erano solo mezzi anche se erano caccia eccetera, però erano tutti mesi che non potevano esprimere il massimo come quelli che c'avevano a terra. C'è un resoconto dei nostri tornado, ad esempio, che erano tre pochi attrezzati con apparecchiature ICM, che pare che abbiano fatto un eccellente lavoro sia per l'identificazione dei radar, e al punto che i soldati serbi erano talmente intimoriti da questi aerei, perché se tu sai benissimo, se il radar rimane acceso, quelli ti intercettano e automaticamente parte il missile alla tua destinazione, e questi praticamente spegnevano sempre il radar, quindi in realtà l'aviazione serba, benché avesse anche parecchi caccia missili, poteva fare ben poco, perché era scoperta, non avrebbe visto o avuto notizie di eventuali attacchi. Quindi questi polpacchioni, per non essere eliminati, spegnevano il radar, accendevano un attimino, poi lo spegnevano, però dal punto di vista tattico non serve a niente, perché poi arrivano gli aerei e ti fanno fuori magari tutte le basi direttamente. Sì, sì, è vero, i tornado hanno fatto grandi operazioni molto efficaci a livello di risultati, perché erano aerei adatti per quel tipo di morfologia del terreno, tutto montagnoso, con delle gole, per dire, cioè, così aerei molto più evoluti, magari in certe situazioni non riescono a rendere tutti questi sistemi di guida digitale, cosa. Invece devi fare guida a vista, devi essere poco, cioè è come dire che per fare ferrato ti danno un coso, un Maserati, mentre più adatto alla campagnola, la stessa cosa, anche se il tornado è un aereo di prima generazione confrontato a uno di quelli di adesso, è ridicolo in combattimento, per dire, vero e proprio, però se devi fare quel tipo di operazioni eccetera eccetera, si è dimostrato molto più efficace di questi, per dire, l'F-15 eccetera eccetera. Sì, all'epoca mi ricordo che c'erano i famosi F-104, ancora non erano stati dismessi, ovviamente adesso non ci sono più, sono tutti finiti a fare nei musei, e anche quelli comunque insomma assicuravano la difesa interna diciamo dalle basi, in modo da scongiurare il soffitto, ma c'era anche il nostro gruppo comunque radar che assicurava, sono andati con quei famosi tir, no, tipo con i container dietro, aprivano, riuscivano sia le batterie di missili sia i radar di scoperta, che controllavano mezza Jugoslavia, quindi non c'avevano speranza neanche di fare un attacco aereo, perché appena decollati li avrebbero intercettati e abbattuti immediatamente. Ne hanno battuto diversi comunque di aerei, diciamo della coalizione internazionale. Beh, molto pochi, devo dire, probabilmente ce ne sono stati un paio di incidenti, per prevalentemente americani comunque, e un paio, credo uno o due colpiti da missili di quelli portatili, ma il rapporto era 10-1, cioè sì, me ne abbattevi uno e te ne facevo fuori 10. Sì, no, rispetto alle missioni che hanno fatto, uno a 100 magari ne hanno abbattuto, però ne hanno abbattuto qualcuno, a me non mi ricordo, perché avevano scoperto come si chiama, un appasso, non so come cavolo avevano fatto per entrare sul programma di cosa, c'è stata qualche spia, qualcuno ha dato dei dati di volo e li hanno, alla cieca li hanno abbattuti senza neanche vedere. Quello lì è un po' probabile, ne hanno abbattuti perché c'erano dei missili russi, quelli diciamo che si lanciano e si dimenticano, poi ti seguono, poi fanno dei inganni, diciamo, però se gli inganni non funzionano perché sei troppo basso, perché sei troppo già vicino al missile, quello c'è una velocità di norma doppia. Quindi scappare è difficile, capito? Anche per errori dei piloti ovviamente, non c'è da dire anche quello, perché in quelle situazioni è così. No, non so se ti ricordi, c'era quell'aereo invisibile americano, l'avevano portato di lì la prima volta che l'avevano sperimentato in combattimento, l'avevano abbattuto, e infatti gli americani sono rimasti stupiti e loro avevano messo il cartello, scusate, non sapevamo che era invisibile, però si è scoperto perché gli avevano dato i dati di volo, per quello il pilota si è fidato, dice tanto non sono intercettabile il radar, invece cacchio, sapevano già il passaggio, dove passare a tale ora, in tale percorso, e ne l'hanno buttato, hanno caricato tutta la contraerea di lì e l'hanno abbattuto. Tutto per quel motivo. Sì, quello probabilmente magari hanno scelto la versione più soft, è stato probabilmente un colpo di culo, no? Come spesso accade in guerra, perché si lancia o si spara un colpo così da lontano e va a centro. Sono tante cose, guarda, io ho visto dei filmati davvero. Invece i micidiali sono un'altra guerra, quella che c'è in Siria, che c'è ancora ma non se ne parla per questioni di comodità probabilmente, e c'erano i carri che venivano attaccati da quei missili portatili, no? Anticarro, ma sono scene veramente, vedi questo afoso che cammina velocissimo, anche filo guidati, che fa le curve, fa tutto, poi lo centra e quando lo centra si leva, salta anche il portellone, no, dalla torretta dove lo fece il comandante, no? E c'è questo portellone, c'è questa fiammata che se tu pensi che non è un film, che è una cosa vera, ti dici ma dentro cosa è successo? Secondo me non ci troviamo più nessuno, perché è una cosa ad un'altezza spaventosa, roba di 10 metri di fiamma che esce da questi metri colpiti. Sono immagini terribili, se pensi che dentro c'è gente che muore. Sì, l'ho visto anche io, e quello che mi ha impressionato più di tutti sono quei sistemi di caccia ad alta velocità, l'hai visto, quella specie di metalliatrice che fa un rumore, fa un rumore così, sembra che stai raschiando qualche cosa, rullando qualcosa, una velocità, e ci sono tipo i tracciati che usava ai tempi della guerra del Golfo Strada Mussein, ma hanno una velocità allucinante, tu spari, lo segui a vista ottica, siccome è molto più veloce dell'aereo, queste specie di tracciati, ma hanno una velocità ipersonica, non so a che velocità sparano questi qui, e c'erano gli aerei, il caccia, che lo stavano seguendo, e buttava i dissuasori, cioè quei coso per disturbare, disturbatori di queste fatte qua, quando ti lanciano un missile buttano delle cose metalliche in particelle per disturbare, e tu vedi come l'hanno abbattuto, erano roba di un paio di minuti dura questo video, ma poi alla fine l'hanno beccato ed è esploso, ma una velocità, prima hanno sparato con i classici contraerei, niente, neanche i solletti, poi hanno iniziato a sparare con questo sistema qua allucinante, io l'ho visto fatto dai russi contro i pirati in mare, ma tu vedi come l'ha fatto la nave, la barca, se l'ha fatta suonare. Sì, l'ho vista in funzione, si tratta, il nome è montato soprattutto su quegli aerei, quelli brutti, no, che hanno, spesso ci disegnano vedete la faccia dello squalo, i denti dello squalo, ed è un aereo così, con due motori, non c'ha quasi niente, però davanti tutto il muso e tutta anche la parte sotto il sedile del pilota c'è questo cannone, che è un cannone praticamente che prende il nome della vecchia mitragliera, cioè le prime mitragliatrici, no? Quella della guerra di indipendenza, le Gatling, dovrebbero, sì, che altro credo si chiamino. Ed è un cannoncino multicanna, perché una canna singola è molto difficile da raffreddare. Quindi con questo sistema la canna ruota e fa un disastro di quello che trova. Tu pensa che ci impiegano un tempo infinito per mettere tutte le munizioni dentro questo aereo. Si vedono i filmati, arrivano col muletto, no? E iniziano a srotolare, non la finiscono più, e caricano questo aereo di munizioni, di nastri veramente che è una cosa pazzesca, quindi ci sarà anche un corpo, e le cartucce sono grandi, anche il doppio di una fotografica, a parte che sono grosse, se si beccano di quelle, una parte sono distaccianti e l'altra parte sono esplosive, e così via. Quando si mette in funzione senti il rumore classico, no? Che sono talmente ravvicinato che fa questo e sono attivato da un motore elettrico stesso. L'ho visto la prova anche da terra, ma in un secondo una macchina diventa ancora veloce, può fare anche la parte. Sì, ma sono iperveloci come velocità, e giocano sulla velocità e sulla rapidità, la quantità di, mi pare che hanno, non vorrei dire che se dire o 3.000 o 6.000 colpi al minuto, una cosa esagerata, e ti risparmia una velocità di migliaia di chilometri orari, per cui quando vedi un oggetto anche se è distante, per dire, mille metri di altezza, tu gli spari in continuazione 3.000 colpi in un minuto, 5.000 colpi, a vedere se lo prende. Sì, un fatto simile, anche se credo che sia monocanna, non ricordo, c'è anche la Pash, l'elicottero, no? Sono proiettili perforanti ad alta velocità, se becca una persona la taglia in due, la fa esplodere, ma è usata soprattutto nei quando vedono quei pick-up, no? Carichi di terroristi o di soldati, danno un colpetto con quello, tra, non ce n'è più. Sì, ma la cosa che mi ha colpito è questo rumore, ti dà una sensazione proprio strana. Io quando l'ho guardato, che prima stavano sparando il classico tum tum tum tum tum tum, colpi per dire 100 colpi al minuto, 200 colpi, ma quello lì invece era proprio e vedi questi fasci, sembravano dei fasci laser, talmente erano veloci, e riuscivano a beccare, sono stato almeno un 30 secondi quest'aereo cercando di schivare, alla fine l'ha preso in pieno ed è esploso, è caduto in terra, sicuramente è morto anche il pilota. Bene, penso che non le abbia fatte. Ma quelli sono sistemi tipicamente americani, no? Che sono sempre bigli. E noi invece abbiamo un sistema che è assolutamente temibile, non so se sento parlare dei cannoni automalara a tiro super rapido, che sono tra i più venduti tra l'altro nell'ambito delle marine, per le fregate, ma anche per unità piccole. E ci hanno un cambio velocissimo e automatico del munizionamento. Il munizionamento più sofisticato è il Vulcano, praticamente. Cosa fanno? A distanza anche considerevoli, quindi parliamo anche di 25 km anche oltre, sparano questa munizione che è una specie di missile, fallo e polvere, sparano 3-4 colpi, fa tan tan tan. E poi che si è visto, questi qua sono computerizzati, si cercano i bersagli che tu hai detto, mi colpisci 1, 2, 3, se li cercano, anche se si spostano anche loro perché c'hanno le rette, sono dei veri proiettili d'artiglieria. Una volta che ti trovano, o fanno un botto solo e senza stare con tanti colpi di mitragliera, Sì, sì, no, sono sistemi di arma, diciamo, di vecchia generazione, ce ne parliamo, non di questi innovativi nuovi, siamo all'avanguardia, gli italiani, siamo mal visti adesso tra gli italiani, però se ce li comprano gli americani vuol dire che la roba va bene. Ha detto bene, su delle fregate e su imbarcazioni da guerra del genere li utilizzano tanti stati, ho visto delle prove comparative. Ma poi adesso ho visto una cosa nuova che non ne parlava mai, i tedeschi hanno fatto questo sistema magnetico, dice che tu li spari e non si avvicinano, tipo i film di fantascienza e Fantastici 4, si blocca il proiettile con un sistema magnetico. No, di quando ancora non l'ho sentito, ho sentito del cannone magnetico che stanno sperimentando per il lancio a grande distanza, però occorre tanta energia ancora, finché non c'è un sistema che possa fornire determinata energia, non va bene. Poi ci sono i sistemi laser antisatellite, per quello che l'HF regnerà sempre in campo militare, perché per quanto fanno comunque il satellite rimane un oggetto molto ma molto vulnerabile. Anzi, non mi meraviglierebbe se ci fossero anche, se non già ci sono, dei satelliti killer, cacciatori nello spazio di altri satelliti. Dillo ai cinesi, da questo punto di vista i cinesi sono l'avanguardia nel mondo. Hanno dei sistemi di missilistici, non lavorano come tutti gli altri, per dire, tu trovi il bersaglio, vanno in linea orizzontale, tu lo beccano, questo arriva non so a quanti metri, a 50-60 km di altezza e poi scende verticale, per cui non può essere intercettato. Tu vuoi spararlo perché scende esattamente nel punto dove lo ributtano, anziché fare la parabola come fanno tutti i sistemi di lancio missilistico, questo arriva a 50-60 km, non so esattamente, arriva in alto e ti cade in testa dritto, tipo come cade la pioggia, e non può essere intercettato. Poi non parliamo dei russi, quei che vanno a 25.000 km orari, quei sistemi di coso, di antimissile, diciamo, missili antimissili. E poi i russi hanno fatto fare brutte figure agli americani nel Mar Nero. C'era un'esercitazione di navi russe e americane, è arrivata questa fregata americana, sono entrati, hanno irradiati di questi campi elettromagnetici allucinanti, chissà di che potenza, l'hanno bloccata la nave, si è bloccata, si è spento tutto, motori, impianti di tiro, qualunque cosa, la nave è stata dovuta rimorchiare, l'hanno portata in Grecia per riparazioni, perché era tutto rovinato, cioè si è spaccato. Poi hanno rifatto un'altra prova, però sono riusciti con un motore a rientrare subito dopo qualche tempo. Figurati che tipi di armi usano qui. Mi è passato di corsa l'animaletto, quello che ti dicevo, era velocissimo e si è fatto tutta la banda camminando, questo corvetto che vedi camminare forte forte, e adesso lo rifarà in senso inverso, presumo. Beh, invece volevo farti una domanda, vediamo se la azzecchi. Tu hai notato quasi tutti i mezzi militari, tipo il dardo, l'altro, il lince, o le jeep americane, o i mezzi americani anche di altri paesi, cioè tutti i mezzi militari, perché le antenne HF le tengono sempre piegate? Spiegate, perché sono lunghezza d'onda molto molto grande, perché dovrebbero tenerle dritte? Ma noi sappiamo che se sono dritte non hanno l'incontro, che ne so, di avere la punta vicino anche alla carrozzeria e così via. Vabbè, c'è anche il discorso di essere intercettabili, più aumenti la superficie e più sei bersagliabile. Entrambe le supposizioni sono sbagliate. Allora, in realtà queste antenne devono rimanere piegate per funzionare, perché se no, siccome di norma lavorano frequenze abbastanza basse, sono 5 mega, 6, 7, anche di 8 mega usati in quel campo lì, e quindi l'antenna deve essere così ripiegata, perché c'è anche un nome particolare, NVIS si chiamano, e servono per fare un'irradiazione molto alta, quindi l'onda va in alto, tipo pallina da ping pong, più la tiri in alto, in verticale quindi, e più cadrà vicino, perché questo necessario per avere anche in ambito di quegli apparecchi che c'è turno, se tutti guardi in alto andava piegavano sempre, e serve per avere una distanza minore e un'efficienza maggiore, quindi una maggiore sicurezza di comunicare. Ad esempio, se noi siamo a Sassari e abbiamo una di quelle antenne in verticale, Cagliari ci sente magari molto molto male e ci sente meglio Roma. Se invece noi la pieghiamo a livello di terra, questa antenna radierà in maniera pressoché verticale, quindi la famosa pallina da ping pong avrà un raggio molto più corto, e questo permette di sentirsi a minor distanza con maggiore efficienza, perché tu lo sai che quelle 5 o 45 metri sono lunghezze d'onda che vanno abbastanza lontano. In quel caso lì servono che vadano abbastanza vicino. Sì, ho capito il discorso, sì, c'è anche una logica. Come hanno fatto adesso viceversa su quando fanno i concerti, che prima mettevano potenze esorbitate per ti ascoltavano ad ulti numeri, invece adesso con questi sistemi la nare che sono molto concentrate, lavora l'intensità del suono, la pressione sonora solo circoscritta alla zona dove c'è il pubblico. Non mi frega niente di farci ascoltare a 300 metri con echi, riverberi, che non serve a niente, sono concentrate in quell'arco di 100 metri, 150 metri dello stadio, diciamo, come lunghezza. È la stessa cosa che hai detto tu, però utilizzata per campi, diciamo, meglio arrivare forte nel raggio di un chilometro, così non puoi essere intercettato, ma se a 3 chilometri c'è un sistema di intercettazione, eccetera, eccetera. Lavori bene in quel pezzettino di lì, è una logica molto, molto giusta, dai, hai detto bene. E qual è la tipo di configurazione la trovi spiegata in tutti i manuali, anche nel manuale di quella radio? È spiegato nell'ultima pagina, è spiegato il modo di utilizzo del sistema di telecomunicazione per distanze brevi. Loro distanze brevi intendono dai 2 ai 400 km per intenderci, però le copri bene. Erano usate in quel modo anche nella seconda guerra mondiale. Sì. Interessante conclusione, sì, non ci avevo pensato, ma è così, la logica è così, non c'è da sbagliare, perché è inutile che ti fai ascoltare negli Stati Uniti, e che cazzo me ne frega, fammi sentire a 1000 km di distanza, quando noi la zona di intervento è molto, molto più limitata. Infatti è per quello che si usa questi sistemi qua, è per quello anche che l'HF in ogni caso è sempre attuale, non è... Come pensava qualcuno, i satelliti qua, i satelliti nei casi di guerre importanti sono i primi a essere disturbati, fino a essere anche bersagliati. E così, sono già fatte le 8, quindi la pancia brontola, la fame si fa sentire, i fuochi vanno accesi. Ci sei abbassato parecchio di segnale, non so se hai toccato qualcosa. Andato in emergenza, c'è ragione. Sei sceso a 9 più 15, eri 9 e 25, 10 punti. No, dimenticato, cosa è successo di bello? Vediamo un po' cosa mi dice. Eh sì, me lo segnava anche lo strumento. Ci sto facendo con mezzo watt. Forse che sia che forse che si sta guardando la radio. Se non c'era qualche problema di ROS, che magari con questo fatto del vento ti ha buttato giù l'antenna, ha tagliato qualche cavo, non lo so. No, negativo, perché c'è anche il sistema della fine d'occhio e mi dice che va tutto bene. Quindi sono 1 e 2, c'è il PL che non vuole visto, queste sono sempre delle stazioni da cavolo che fanno su questo. Vabbè, speriamo bene, l'acqua va raffreddata e niente, tutto lì. Va bene, ti saluto Roberto, dai, vado a cenare. io rimango ancora un pochettino qua, buon tutto, buona carica, ci risentiamo alle prossime, ciao alle prossime. Ok, dopo alle prossime, ciao. Vediamo se nel frattempo c'è qualcuno su 10, attenzione 10 che vuole entrare. Hola, c'è qualcuno su 10? Robè. E a Luca, tutto a posto. Tutto a posto, niente inutile. Tu l'hai sentita questa tromba d'aria? Io a me qua non mi sono accorto di niente. Cosa Robè, scusa? Se hai sentito di questa tromba d'aria che c'è stata? Ecco. E chi è questo così forte di prepotenza? Avanti il break. Sono una voce forte. Buonasera. Ciao Tino, come hai sentito? C'è anche Luca adesso. Bicicletta. Luca entra e poi vuci. Luca! No, ciao Tino, no, al telefono Robè. Se non rispondo vuol dire sono al telefono o mi sono spostato. Purtroppo qua funziona così. E vabbè, ma come lo passo? Vero. Io ti buco le ruote della bicicletta, mi. Se ne rubo il cavalletto, così cade in terra. Allora, io avevo spezzato la 510. A te ti ha fatto danno? Danno, un pezzo di albero, un tronco di alloro, che era abbastanza alto, insomma, nell'alberello. E poi la 510 me l'ha spezzata. Ma ci credi che io non mi sono accorto di niente? Io sono andato a prendere la mia figlia, l'ho detto anche prima, ad Alghero. Hanno dirottato l'aereo, nel senso, posticipato la partenza proprio per questo fatto, perché c'è stata ad Alghero, forse veramente ha rovesciato un aereo di quelli di Pipe, l'ha capottato proprio alla pista. Poi tutti gli alberi l'hanno detto tu bella, rampato in terra, un macello ha fatto di lì. Infatti io ho detto che è strano, poi ho visto su internet, e così Claudio mi ha detto anche da lui, ha scoperchiato qualcosa, a Gianfranco. Invece qua, nella zona mia, che siamo abbastanza vicini, con Claudio, un paio di chilometri, in realtà qua non mi sono accorto di niente. Ma io ho visto, delle foto, lì zona veloce, qualche tetto l'ha buttato giù. Infatti, poc'anzi stavo parlando con Gian Maria, perché ho sentito, gli ho chiesto qualche informazione, però lui voleva guardare. Non so, mi cerca da solo qualche cosa è successa. Ok, datemi 5 minuti di bianco, arrivo subito, scusa. No, va bene, biancare, vai. E allora Luca? Allora sì. E bella. Claudio San Camillo. Caterella. Ciao Tiro Muscolo. Ebbe Claudio, ciao, buonasera. Claudio Garganella. Io pensavo che erano più di 100 km orari. La manta va la piega fa in due, però la manta non la piega ma non spezza, dove un tubo. C'è il sistema, quello che avevo preso a Fabrizio, dove c'erano le direttive. C'è un tubo da 60 come piantone a finire a 50, figura, perché sono tre elementi. Ma raffiche di vento mi ha spezzato in due la griglia di legno che avevo messo per dividere un po' la veranda perché era molto grande, mi ha spezzato in due, ho dovuto riassemblare, riaggiungere e rimontare. Allucinante veramente. Lì Gatri c'era il salottino fuori, era nella strada, a Giumai, proprio raffiche allucinanti. No, io ero fuori perché ero sotto la veranda, stavamo organizzando per... eravamo incerti se partire o non partire, andare al mare o meno, e vabbè dai. È iniziato questo momento, tu non sai che rimaniamo qua, tra una cosa e l'altra, eravamo fuori, guardando, è passata proprio quando eravamo lì e ho visto una cosa buona e ho detto, cacchio, era la 510, spezzata in due. Ho mandato le foto armate e poi mi ha dato anche qualche fotografia lui di quello che è successo a casa sua, ma niente di grave, grazie a Dio, qualche albero così giusto coricato. Ma vabbè, non c'è problema, dai, l'ordiniamo, ehi, mi sembra l'antenna solo. No, io la 510 l'avevo tolta a carbonato e l'ho regalata. No, ho messo una 300 che è piccolina ed è sotto a fianco alla mantola e basta. Ma non ho di fuori, non ho niente, capito? No, però non si so, niente non sono manco mosse. Il danno maggiore me l'ha fatta, mi dispiace, l'avevo fatta fare quella griglia in legno bellissima e me l'ha spezzata in due. Fortunatamente c'avevo l'altra, quindi gliel'ho giuntata. Ho messo le viti e l'ho rimessa al suo posto, speriamo non ci invece stanotte il vento, comunque è andato temporale dalle 9 in poi, quindi io infatti mi sono già chiuso tutti gli sportelloni, ufficio qui a Barricato Trento, c'era Bigliello Cicciolo, il giornaliere sollevato, ci abbassate e lui faccia quello che vuole, San Mattia, il salottino l'ho tutto già tolto e messo nell'altra stanza del caviglio, ma così si simbaccia vento, non vengo cavura, San Mattia. KKK di Rogero, tutto bene di sì? Sì, sì, grazie a Dio sì. E ripeto così, col punto di domanda, siccome ieri domani devo andare una giornata libera praticamente, e adesso facciamo domenica e lunedì al mare, ci facciamo notte fuori. ho visto gli ultimi video, ho detto no, forse conviene rimanere in casa, allora. Se c'è tempo anche in inverno a uscire, che tanto lui è organizzato anche per l'inverno, quindi non c'ho problemi. Però l'ultima domenica che ho fatto, per dire che ha messo temporale, sono andato in Argentina, mi ha abbassata leva, ma bellissimo, una notte stare lì quando piove dentro quella macchina lì è tutta un'altra cosa. Quella è una cosa diversa, la tende, è cazzata, hai capito, lì sei più tranquillo qui, no, non penso che ci siano problemi. Poi quella domenica lo stesso, avevamo fatto un massetto fuori col mio vicino, e finito il massetto tutto siamo usciti a becci una birra a veranda, cazzo commenta che c'è il quattrone, ma la vado in tutto, è diventato sabbia. E l'abbiamo rifatto l'indomani che era ancora morbido, l'abbiamo tutto rifatto. Una rottura di balle, queste acque così sono quelle veloci e che non avvisano. Sto dicendo, io ero in pantaloncini a petto nudo, cazzo di vita terrassica di vento, ho visto la gadria murata, ho detto papà, addio, ma proprio una cosa mai vista, quello invece un maledetto bastardo. Avanti tu. Sì, Luca al telefono, allora dai. Bene, stai arrivando, 9 più 10 sei qua. Sono Luca 45, sempre un solito, i 20 watt, non sono alzato, già va bene così. Allora, io sono con 4,30, 20 watt e 40 modulati, 35 modulati, dai, va bene. Tanto va per fare due chiacchiere più che sufficiente, non posso segnare qua 9 più 10. Sì, andare. Abbondo, va bene, tanto ero un po' di tempo senza accenderlo, e adesso, visto che sono a casa ne approfitto, ho acceso anche l'altro, solo che ce l'ho spento, quello valvolare, per provarlo, ma non giocava. No, sì, io sto entrando zero sotto zero, stamattina ho salutato Gianfranco e Roberto, e stasera sono entrato a salutare anche a Luca, basta, no? Mi sta passando un po' il secondo ordine, anche perché sono molto impegnato, c'è un sacco di cose da fare, tu già lo sai com'è, quando ero a casa fuori città e c'è sempre da fare. E quindi sono un po' impegnato, ma meglio così, però quando sento qualcuno che praticamente merita un saluto, io entro e saluto, non c'è nessun problema, ma questo non è proprio facendo. E allora, no, anche io sono sempre fuori, impegnato con il lavoro, grazie a Dio, siamo una grande, quindi siamo sempre gli orari un po'. Abbiamo dovuto dimezzare un pochino perché stiamo mandando la rotta di collo, anche alle 10 di notte, sabato, domenica, il caffè, quello bello, calmiamoci un pochino perché comincia la canzone, nuova età. Sì, nuova età, tu glielo dici, io mi lo sai mongo a fare che cosa? La notte mi devo sempre prendere una bustina perché altrimenti di domani mattina non riesco a andare a letto, figurati. Però devo fare, non so, a me non mi fa niente nessuno, c'ho anche ancora da finire la stanza che è 6 metri per 4, 24 metri quadri, alta 2 metri e 20, 2 metri e 10, devo ancora intonaccarla e pavimentarla, quindi figurati, sto andando molto a rilento, il corretto è finito, queste sono cose che si fanno con calma, piano piano. Tutto qua, va bene, non c'è problema. Tu Guerriere? Sono Luca dalla benedizione e poi va in stand-by. No, diciamo la verità, da quando ho ripreso questo lavoro qua, purtroppo, tra virgolette, purtroppo perché ho dovuto mettere un po' da parte anche certi lavori per gli amici, quindi sono incasinato, non posso parlare di principale per poter fare le secondarie, hai capito? Lo so, purtroppo capisco perfettamente la tua posizione perché so esattamente il tutto, faccio, però purtroppo è così, quando c'è degli impegni molto, molto impegnativi, soprattutto col lavoro principale, ti porta anche ad avere un po' di difficoltà a prendere gli impegni con gli amici, tutte le tue cose che fai, eccetera, capito? Piano piano. Gli amici che hai già sono amici veri e quindi ti capiscono, del resto è così purtroppo. Io diciamo che sono rimasto solo e quindi le cose me le sto facendo io piano piano, qualche mio vicino già ogni tanto mi dà la mano, che è un po' pratico, insomma, meglio di me, e poi basta, il resto è tutto finito, tutto fatto, grazie a Dio. E sono entrato che era già al 95% tutto fatto, ho ancora qualche cosettino da finire che me lo sto facendo, ho finito di impiantare tutto fuori, tutto il muro di recinzione interno, i muri praticamente tutti perimetrali della casa, tutta la facciata in alto, insomma, tutto il resto è fatto. E piano piano le cosette che ci sono da fare secondarie già si fanno, eh. Mi pongo piano piano, ci pacchenni, ma se stupio già arrivo. Sì, vabbè, anche un passatempo, dai. Quando si è liberi è un passatempo, quando si è impegnati col lavoro, sai come quello, quando hai soldi non è il tempo, quando è il tempo non hai soldi, quindi è così. Luca! Gabriello, vabbè, sei rientrato. La radio com'è di questo 4.30? Sempre la stessa? Andabex. Vabbè, ti avevo avvisato. No, va bene. Ma questo era un po', non so neanche se vuoi toccato, perché avevo lasciato l'acceso e niente, ho visto che c'era, adesso andavo a spostare, ho messo qualche tastino tipo rite o memoria, ho dovuto fare giusto qualche cosina così, però il mic e carrier più buono li ho lasciati, non so se è rimasto com'era, dai. No, sì, idem con le patate, ti avrei avvisato, la tua modulazione è sempre quella, rispetto al segnale 9 più 10, la radio è super 5, come sempre, arrivi ma un pelino proprio, di 9 e 15, quando era carbonato è quasi 9 e 10, con i picchi te ne vai oltre 9 e 15, quindi diciamo che non è cambiato molto, anche perché la posizione che ho è abbastanza alta, abbastanza libera. Appena rinvallata, ma insomma già ci difendiamo bene lo stesso, non c'è problema. Luca Ariello. No, guarda un attimino una cosa qua, perché adesso non mi ricordo, guardate il segnale però è sempre, che faccio una prova leggera. Ora si è cambiato una cosa. Mi sembra che c'hai leggermente più picchi di modulazione, appena però, non molto. Aspetta. E così invece picchia non è vero, dovrebbe essere, o perlomeno se ci dà proprio leggeri. Sì, conferma. Allora aspetta, E così va meglio, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3. Sì, più o meno sì, come prima, diciamo, va bene così. Allora aspetta, la metto come la prima. No, ecco, così era. Come prima, diciamo, stavo ricordando una cosa, invece nel 45, il DB non deve superare la LC come. Se la supera va sempre, cioè il segnale rimane sempre lo stabile, però i picchi rimangono sempre di meno, capito? Invece così ha qualche picco in più. Sì, 45 è così, me lo ricordo perfettamente, infatti ne avevamo parlato, tutti i passaggi e passaggini, alla fine mi avevano rotto le balle. Sarà una bellissima radio, non ti preoccupare, va bene, alla grande, rispetto a 9.10 con picchi a 9.15 abbondante, mentre può fare leggermente più scarsi, ma comunque diciamo che in linea di massima sei tu, dai. No, lascio così, no. È giusto perché non mi ricordavo, non per altro. No, lascia così, che la manovra sua è quella, no, non ci sono problemi. Gappa, eia, e vabbè, pensando per fare più fretta, però anche il mio vicino mi ha detto ma caghi tutto, un casino, che c'è un calma, tu pareggi lo giramento, tutto, avete una giornata di quattro ore, mi ha detto, una mattinata cosa facciamo? Una parete, e si fa una parete, l'indomani un'altra parete, e si fa un'altra parete, più una mano io, piano piano lo vedo, perché volevo prendere la pompa, capito, fare la pompa, ma dice che fai un casino nero. Ma guarda, io sinceramente a pompa ho visto gente lavorare, c'è chi sporca e c'è chi no, quindi diciamo la verità che dipende da chi lo fa, perché si organizza uno, si mette qualcosa in terra, fa la pompa, fa molto prima, poi toglie quello che c'è in terra ed è mai pulito, capito? Però, tu ti devi immaginare, lo sai benissimo che è un cemento che stai spruzzando con la macchinetta, adesso anche lì all'ortobotanica hanno fatto, erano in quattro, hanno fatto parecchi metri quadri, però erano organizzati, hanno messo la roba in terra, una volta finito, fratasso tutto quanto, ribalato tutto, fatto e finito il lavoro. Ma ecco il mio vicino, ecco è molto più veloce, capito? Non so, adesso vediamo, cerchiamo qualche intonacchini, cerchiamo qualche intonacchino, o se ne conosco un bel io. Vediamo un po' cosa mi dicono, o se no, se lo vai muovere, cosa avete voi. No, lì è con la stanza da finire, perché mi serve, finita, ordinata, pulita, c'è già il massetto, tutto già fatto, c'è solo da incollare il pavimento e basta, già tutto il pavimento è tutto già fatto. E basta, ce l'ho ancora blocchetti, quindi ho recluso l'entrocada, perché buchi non ce n'è, i buchi sono stati già tutti tappati, ho le do una strozzata bella. Eppure con la bassa dai gattina la faccio rustica o se no liscia, boh, non so, non me ne intendo io, ma secondo me viene bella anche così rustica, no? È rustica cosa intendi? Spruzzata, cioè, intonacata senza frattassare? Sì, così, e poi dato il grassello, dato boh, un bianco, una calce, non lo so, e tanto è un ripostiglio, però mia moglie ha detto, oh, finita tutta presentata perché lì facciamo un tramezzo e facciamo un'altra stanzetta, capito? Perché c'è la porta, c'è tutto, c'è l'acqua, capito? No, se dovesse venire qualcuno, ecco che devi venire, il Presidente della Repubblica, se viene qualcuno lo chiudo lì dentro e ci butto la chiave. No vabbè, diciamo che se è poco importante va bene anche così, ma anche intonacata, frattassata va bene meglio, e poi ci metti il bianco va bene uguale. Se invece esternamente, giustamente se dai l'intoten è più riservato anche la facciata. Oh, la facciata è fatta, sì, esternamente è tutto finito, è solo internamente questa stanza, capito? Che inizialmente doveva essere una dipendenza, e poi invece l'abbiamo lasciata così, capito? Già da tanto tempo, da prima di venire a abitare, il progetto era quello, e poi è rimasta così, capito? Ho fatto fare tutto e quello è rimasto, però esternamente è tutta intonacata, fine, verniciata, colore la facciata, beige, è solo internamente che non è né pavimentata né intonacata, ma c'è l'acqua, la luce, tutte le tracce, tutti gli interruttori, è tutto finito, vuole solo intonacata. Sì, allora farlo, consiglio mio, io l'avrei fatta, internamente, poi se ci devi stare, se la devi usare, che ne so, come vuoi, però una volta che dentro la cosa è meglio intonacarla, rimane più pulita. Sì, è fatto così. Dopo caso ha fatto questa notte, c'era l'entusiasmo di farla e poi avevamo mollato. Mi sono dedicato a fare altre cose, possessi, altre cose che mi mancavano, insomma, ho terminato più l'esterno perché poi arriva l'inverno e mi mancano i possessi, recupero la coppia urbana, ho messo i pannelli finestrati tutto in giro al Carveglio perché ho 30 metri di Carveglio dove cammini in giro la casa, quindi capito. E vabbè, allora facciamo così, dai. Non so neanche, devo chiedere qualche intonacchino che me lo faccia, ma io penso che 24 metri quadri sono sempre 4. Sempre 4, altra 2, tu che te ne intendi, quante giornate ci vorranno, un paio di giornate ce la fanno intonacarla. No, tu sempre 4,24. via, non devi guardare quanto grande la stanza. Ci sono due pareti da 6 metri alte 2,10 e due pareti da 4 metri alte sempre 2,10. E già ci vuole una settimana buona, perché poi devi impostare a mano, capito? Non è che poi cosa vuoi fare? Ti tonaco e poi fino anche. Dipende cosa vuoi fare tu, se no molta gente adesso sta usando direttamente Eintopen direttamente, figurati. No, no, ho già preso l'Eintopen, perfetto. Eintopen fa passare, sì. Giusto una pulita, capito? Ma io poi posso verniciare, dare una bella passata di bianco e attaccare il coso, lampadario, oddio, lampadario, la plafoniera al centro e via, capito? Perché così è finita anche quella lì. Ho capito, ho capito. Vabbè, ti ripresento che io quando faccio, lo faccio sempre, sempre due mani, quindi la prima mano, poi la seconda, poi la fattassi. Dipende chi ti fa lavoro, capito? Se io così una cosa del genere ti direi 4 giorni. In 4 giorni, no? Ascolta, così sacco più, sacco meno, più o meno quanti quintali di cemento ci vorranno? Ma tu stai parlando intonaco, no? Non Eintopen. Cioè tu vuoi la calce praticamente, l'intonaco a paretta. Sì, se va a vedere uno profano, non è sicuro, Eintopen, per intonacarla più o meno, quanto Eintopen, quanti, non sarà sacchi questo Eintopen. Ascolta, se vuoi mal d'affronto, non lo so cosa vuoi fare io, però se non lo vedo non ti so dire così cosa vuoi fare tu. Se vuoi, il blocchetto com'è? È nudo? Sì, blocchetto. Allora, qui l'hai puzzato, quindi ci vuole sempre cemento un po' grasso per sfruttarlo. Dopodiché, le liste per l'intonaco. Così, ci vanno le liste anche fatte l'intonaco e tutto. Ehi, cazzo, che ne travaglia lui. Sì, allora ci dà stimarsi così. Minchia papà. Minchia papà. No, probabilmente l'avevo già preso, l'avevo preso al bricome. Ho preso 10 scatole di quello da grande. 50x50, no, 60x, insomma, ecco, sono grandi comunque, sono fatti grandi, quindi probabilmente ce l'ho già, è già pronto, già bello che è fatto il pavimento, l'ho solo rastrellato e attaccato il pavimento. E l'intonaco, minchia, cazzo, una settimana ci vuole, mamma, torre muratura una settimana a casa, mamma mia, come sto. Lugariello, siete entrato, Roberto, non so, avanti Luca se ci sei, dai. Non sono entrato io, ora. Vabbè, avanti, Roberto. Sapete che devo togliere un grillo che è entrato in casa. Poi devo dare l'offerta, e poi ci devo massacrare la zinzola. È pieno di queste, non sono neanche zanzare, sono pappattacci, ma ti fanno a beffa, a me giù ai punti, quando c'era l'allenamento, c'erano i fari completamente pieni di questi insetti maledetti. Ma anche su a Genova c'è un amico, la stessa cosa, metto, sono piene. Sì, da me, che ho già dato la medicina 3 volte per i pappattacci. Ogni volta che nasce, cazzo, mi devo mettere i pantaloni lunghi, c'è una mammata. Ma tu fai come ti ho detto io, Clave, poi te l'ho già detto cosa devi fare. Come ho fatto, Robè? E cosa hai fatto? La medicina ho dato con l'atomizzatore. No, non così, cazzo, quelli volano, vedono la luce. Tu ce l'hai una lampadina della notte e rimane accesa fuori. Certo che c'è, ci sono i 2 neon più i 2 faretti che del cancello. Tu lo sai cosa fai, prendi un secchio d'acqua, lo riempi d'acqua e sopra lo metti vicino al lampione in modo che l'acqua rifletta dalla luce del lampione, cioè la luce del lampione rifletta sull'acqua, le butti un po' di olio, gasolio, dai, i pastori mettono gasolio, queste vengono attirate dalla luce, vanno su questo affare convinti che sia tipo vetro, qualcosa del genere, e rimane tutti incullati, muoiono milioni, e una volta ne ammazzi milioni da zanzare, insetti vari e tutto. Lo usano i pastori per gli animali, per quando li pungevano queste zanzare, questi pappattacci che li infettavano. Problema, no, io ho dato già la medicina e sembra che le abbia un po' alterate, però ecco, quando esco verso le 7, le 8, che mi metto a innaffiare il prato, o esco a fumare, mi faccio tutto un buco nelle gambe, capito? Va bene ragazzi. Grazie, io vi saluto, è stato un piacere avervi ascoltato e scambiato due chiacchiere, non mi sono mai trattenuto così tanto. Ciao Rubi, noi ci aggiorniamo, già lo sai, io posso sempre trovarti. Ciao Tino, un abbraccio grande, saluti a casa, eccetera, eccetera. E un saluto anche a Cacarella. Vai T. Sono andato a fare un omicidio con un grillo, Tino, mi pare. Vabbè, già ci sentiamo, anche io faccio un po' di ora, ho già mangiato a roba veloce anche non a Riugana. E dopo mi guardo il Cagliari, allora vengono qua. Ehi, lascio acceso, sei partito.